Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Ottava puntata. Alberto era stato messo, dopo molte incertezze e discussioni, in collegio. Mio padre sperava che ci restasse male, si pentisse e si ravvedesse a quel severo castigo. E mia madre invece gli diceva: «Vedrai come stai bene, vedrai come ti diverti». Vedrai come si sta bene in collegio. Io nel mio collegio com'era bello, come mi sono divertita. Alberto andò in collegio allegrissimo, come era sempre. Raccontava, quando veniva a casa in vacanza, che in quel collegio, quando erano a tavola e mangiavano la frittata, si sentiva a un tratto suonare una campanella. Entrava il direttore e diceva: «Avverto che non si taglia la frittata con il coltello». Poi di nuovo suonava quella campanella e il direttore spariva. Mio padre non andava più a schiare. Diceva che era diventato troppo vecchio. Mia madre aveva sempre detto: «Malignazza montagna», lei che non sapeva schiare e rimaneva a casa. Ma adesso le rincresceva che mio padre non schiasse più. Era morta Anna Kuliscioff. Mia madre da molti anni non la vedeva, ma era contenta di sapere che c'era. Andò a Milano per i funerali insieme alla sua amica Paola Carrara, che anche lei da ragazzetta era sempre in casa della Kuliscioff. Riportò di là un libro listato di nero, dove c'erano scritti in memoria della Kuliscioff e suoi ritratti. Mia madre così rivide Milano dopo tanti anni, ma non aveva più nessuno a Milano, i suoi erano tutti morti. Trovò la città cambiata, diventata brutta. Disse: «Non riconosco più la mia Germania». I Terni dovevano lasciare Torino. Andavano ad abitare a Firenze. Partì prima Mary con i bambini. Terni rimase ancora per qualche mese. «Che peccato che ve ne andate via da Torino», diceva mia madre a Terni. «Che peccato che Mary se n'è andata e non vedrò più i bambini. Si ricorda del giardino di via Pastrengo, quando lei giocava a palla col cucco e venivano gli amici di Gino e si giocava ai passi. Era bello». I passi era un gioco che si faceva così. Uno si metteva contro un albero, faccia al tronco, e si voltava di scatto. E gli altri dovevano fare dei passi quando quello non li vedeva. «Non mi piace questa casa», diceva mia madre. «Non mi piace la via Pallamaglio. Mi piaceva avere il giardino». La malinconia però le passava presto. Si alzava la mattina cantando e andava a ordinare la spesa. Poi prendeva il tram numero 7. Andava col tram fino al capolinea e ritornava indietro senza scendere. «Com'è bello andare in tram», diceva. «È più bello che andare in automobile». «Vieni anche tu», mi diceva al mattino. «Andiamo a Pozzostrada». Pozzostrada era il capolinea del numero 7. Si vedeva là uno spiazzo col chiosco d'un gelataio e le ultime case di periferia. In lontananza, campi di grano e papaveri. Nel pomeriggio leggeva il giornale stesa sul divano. Mi diceva: «Se sei buona ti porto al cinematografo. Vediamo se c'è un film adattato per te». Era lei però che aveva voglia di andare al cinematografo e infatti ci andava lo stesso, da sola o con le sue amiche, anche se io avevo da studiare. Rientrava di corsa perché mio padre tornava dal laboratorio alle 7:30 e voleva trovarla in casa quando tornava. Se non la trovava, si metteva ad aspettarla al balcone. Mia madre arrivava senza fiato con il cappello in mano. «Dove diavolo sei stata?» urlava mio padre. «Mi hai fatto stare in pensiero? Scommetto che anche oggi sei stata al cinematografo. Passi la vita al cinematografo». «Hai scritto a Mary?» chiedeva. Ora che Mary era andata a stare a Firenze, arrivavano a volte sue lettere e mia madre non si ricordava mai di risponderle. Le voleva molto bene, ma non aveva mai voglia di scrivere lettere. Non ne scriveva neppure ai suoi figli. «Hai scritto a Gino?» le chiedeva mio padre. «Scrivi a Gino! Guai a te se non scrivi a Gino!» Io mi ammalai e fui malata per tutto l'inverno. Avevo un'otite, poi mi venne la mastoidite. Mio padre, i primi giorni che ero malata, mi curava lui. Aveva nel suo studio un armadietto che chiamava la farmacia e vi teneva i pochi medicinali e strumenti che usava per curare i suoi figli o i suoi amici e i figli dei suoi amici. Ed erano questi: per le sbucciature, tintura di iodio; per il mal di gola, blu di mitilene; per i paterecci, il birr. Il birr era un laccio di gomma che si doveva legare stretto al dito malato finché non diventava quel dito di colore turchino. Il birr però non si trovava mai nella farmacia quando ce n'era bisogno e mio padre andava urlando per la casa: «Dov'è il birr? Dove avete messo il birr?» Diceva: che disordinati che siete. Non ho mai visto gente disordinata come voi altri. Il Bir era in genere nel cassetto del suo scrittoio. Però s'arrabbiava se qualcuno gli chiedeva qualche consiglio sulla propria salute. Diceva offeso: io non sono mica un medico. Voleva curare la gente, ma solo a patto che non chiedessero di farsi curare. Diceva un giorno a tavola: quel Sempio di Terni all'influenza si è messo a letto? Uff, non avrà niente, mi tocca andare a trovarlo. Che esagerato quel Terni, diceva la sera. Non ha niente, sta a letto con la maglia di lana. Io mai porto maglia di lana. Sono in pensiero per Terni, diceva dopo qualche giorno. Non gli va via la febbre? Ho paura che abbia un versamento pleurico. Voglio che lo veda a Stroppeni. «Ha un versamento pleurico!» urlava rientrando la sera cercando mia madre in tutte le stanze. «Lidia, ma sai che Terni ha un versamento pleurico?» Portava al letto di Terni, Stroppeni e tutti i medici che conosceva. «Non fumi!» urlava a Terni ormai che era guarito e prendeva il sole sulla veranda di casa sua. «Guardi che non deve fumare! Fuma troppo! Ha sempre fumato troppo! Si è rovinato la salute a furia di fumare!» Mio padre, lui, fumava come un turco, ma non voleva che fumassero gli altri. Diventava con i suoi amici, con i suoi figli, nel tempo che erano malati, molto mite e gentile, ma appena guarivano, riprendeva a strapazzarli. La mia era una malattia grave e mio padre smise subito di curarmi e fece chiamare medici di sua fiducia. Alla fine mi portarono all'ospedale. Perché l'ospedale non mi facesse impressione, mia madre mi aveva dato da intendere che l'ospedale era la casa del dottore e che gli altri malati nelle stanze erano tutti figli, cugini e nipoti del dottore. Io, per obbedienza, credetti. E tuttavia, nello stesso tempo, sapevo che si trattava di un ospedale. E quella volta, come anche più tardi, la verità e la menzogna si mescolarono in me. «Ora hai le gambe più magre di Lucio», disse mia madre. «Ora sarà contenta la Francis?» Difatti la Francis usava confrontare le mie gambe con quelle di Lucio e crucciarsi perché le gambe di Lucio erano secche e pallide nei calzini bianchi tenuti su da un elastico di velluto nero. Sentii una sera mia madre parlare con qualcuno in anticamera e sentii che apriva l'armadio delle lenzuola. Sulla porta vetri passavano ombre. Di notte sentii tossire nella stanza accanto a me. Era la stanza di Mario quando veniva il sabato, ma non poteva essere Mario, non era sabato, e sembrava una tosse di un uomo vecchio, grasso. Mia madre, venendo da me al mattino, mi disse che aveva dormito là un certo signor Paolo Ferrari e che era stanco, vecchio, malato, aveva la tosse e non bisognava fargli tante domande. Il signor Paolo Ferrari era in sala da pranzo che beveva il tè. Nel vederlo io riconobbi Turati, che era venuto in via Pastrengo una volta, ma siccome mi avevano detto che si chiamava Paolo Ferrari, credetti, per ubbidienza, che fosse insieme Turati e Ferrari. E di nuovo verità e menzogna si mescolarono in me. Ferrari era vecchio, grande come un orso e con la barba grigia tagliata in tondo. Aveva il collo della camicia molto largo e la cravatta legata come una corda. Aveva mani piccole e bianche. Sfogliava una raccolta delle poesie di Carducci rilegata in rosso. Poi fece una cosa strana. Prese il libro in memoria della Kuliscioff e vi scrisse una lunga dedica a mia madre. Firmò così: Anna e Filippo. Io avevo le idee sempre più confuse. Non capivo come potesse lui essere Anna e come potesse essere anche Filippo, se era invece, come dicevano, Paolo Ferrari. Sembravano mio padre e mia madre contentissimi che lui fosse lì. Mio padre non faceva sfuriate e si parlava tutti a voce bassa. Appena suonava nel campanello, Paolo Ferrari traversava il corridoio di corsa e si rifugiava in una stanza in fondo. Era di solito o Lucio o il lattaio, perché altre persone estranee non vennero in quei giorni da noi. Traversava il corridoio di corsa, cercando di camminare in punta di piedi. Grande ombra di orso lungo i muri del corridoio. La Paola mi disse: «Non si chiama Ferrari, è Turati, deve scappare dall'Italia, è nascosto. Non lo dire a nessuno, neanche a Lucio». Giurai di non dire niente a nessuno, neanche a Lucio. Ma avevo una gran voglia di dirlo a Lucio quando veniva a giocare con me. Lucio però non era affatto curioso. Mi diceva sempre che io facevo la curiosa quando mi mettevo a interrogarlo sulle cose di casa sua. I Lopez erano tutti molto segreti e non amavano raccontare le cose della famiglia. Così noi non sapevamo mai di loro se erano ricchi o poveri, né quanti anni compiva la Francis e nemmeno cosa avevano mangiato a pranzo. Lucio mi disse con indifferenza: «Qui in casa tua c'è un uomo con la barba che scappa via dal salotto appena arrivo io». «Sì», gli dissi, «Paolo Ferrari». Desideravo che mi facesse ancora domande, ma Lucio non domandava altro. Batteva nel muro con un martello per appendere un quadretto che aveva fatto e che mi regalava. Era un quadretto che rappresentava un treno. Lucio aveva la passione dei treni fin da piccolo. Sempre girava in tondo per la stanza sbuffando e soffiando come una locomotiva. E aveva a casa un grande treno elettrico che gli aveva mandato lo zio Mauro dall'Argentina. Gli dissi: «Non battere così col martello. È vecchio, è malato, è nascosto. Non bisogna disturbarlo». «Chi?» «Paolo Ferrari». «Vedi il tender», disse Lucio. «Vedi che ho dipinto anche il tender». Lucio parlava sempre del tender. Io ora, in sua compagnia, mi annoiavo. Avevamo gli stessi anni e tuttavia mi sembrava tanto più piccolo di me. Non volevo però che se ne andasse. Quando veniva la Maria Boninsegna a riprenderlo, mi disperavo e pregavo che lo lasciasse da noi ancora un poco. Mia madre ci faceva scendere, me e Lucio, con la Natalina, sulla piazza ad aspettare la Maria Boninsegni. Diceva: «Così prendete un po' d'aria». Ma io sapevo che era perché la Maria Buoninsegni non avesse a incontrarsi in corridoio con Paolo Ferrari. C'era in mezzo alla piazza un rettangolo d'erba con qualche panchina. La Natalina si metteva seduta sulla panchina, dondolando le sue gambe corte dai lunghi piedi. Lucio, sbuffando e soffiando, faceva il treno tutto intorno alla piazza. La Natalina, quando arrivava la Maria Buoninsegni con la sua volpe, si profondeva in gentilezze e sorrisi. Nutriva per la Maria Buoninsegni la più grande venerazione. La Maria Buoninsegni la guardava appena e parlava con Lucio nel suo toscano forbito e prezioso. Gli faceva infilare la maglia, trovando che era sudato. Paolo Ferrari rimase in casa nostra, mi sembra, 8 o 10 giorni. Furono giorni stranamente tranquilli. Sentivo sempre parlare di un motoscafo. Una sera cenammo presto e capivo che Paolo Ferrari doveva partire. Era stato in quei giorni sempre ilare e sereno, ma quella sera a cena sembrava ansioso e si grattava la barba. Poi vennero 2 o 3 uomini con l'impermeabile. Io di loro conoscevo soltanto Adriano. Adriano cominciava a perdere i capelli e aveva ora una testa quasi calva e quadrata, cinta di riccioli cresputi e biondi. Quella sera la sua faccia e i suoi pochi capelli erano come frustati da un colpo di vento. Aveva occhi spaventati, risoluti e allegri. Li vidi 2 o 3 volte nella vita, quegli occhi. Erano gli occhi che aveva quando aiutava una persona a scappare, quando c'era un pericolo e qualcuno da portare in salvo. Paolo Ferrari mi disse in anticamera, mentre lo aiutavano a infilarsi il cappotto: «Non lo dire mai a nessuno che sono stato qui». Uscì con Adriano e gli altri dall'impermeabile e non lo rividi mai, perché morì a Parigi qualche anno più tardi. La Natalina il giorno dopo domandò a mia madre: «Lei a quest'ora sarà già arrivato in Corsica con quella barca?» Mio padre, sentendo quelle parole, si infuriò con mia madre: «Sei andata a confidarti con quella demente della Natalina? È una demente, ci manderà tutti in galera!» «Ma no, Beppino, la Natalina ha capito benissimo che deve star zitta!» Arrivò poi dalla Corsica una cartolina con i saluti di Paolo Ferrari. Nei mesi che seguirono sentii dire che erano stati arrestati Rosselli e Parri, i quali avevano aiutato Turati a scappare. Adriano era ancora libero, ma in pericolo, dicevano, e forse sarebbe venuto a nascondersi a casa nostra. Adriano rimase nascosto da noi per diversi mesi e dormiva nella stanza di Mario, dove aveva dormito anche Paolo Ferrari. Paolo Ferrari era in salvo a Parigi, ma adesso in casa si erano stufati di chiamarlo Ferrari e lo chiamavano col nome vero. Mia madre diceva: «Com'era simpatico, come mi piaceva averlo qui!» Adriano non venne arrestato e partì per l'estero. E lui e mia sorella si scrivevano, essendosi fidanzati. Venne il vecchio Olivetti dai miei genitori a chiedere per suo figlio la mano di mia sorella. Venne da Ivrea in motocicletta, con un berretto a visiera e con molti giornali sul petto, perché usava tappezzarsi il petto di giornali quando andava in motocicletta, per il vento. Chiese la mano di mia sorella in un attimo. E poi però rimase ancora un pezzo in poltrona nel nostro salotto trastullandosi con la sua barba e raccontando di sé. Come aveva tirato su la sua fabbrica con pochi soldi e come aveva educato tutti i suoi figli e come leggeva ogni sera, prima di addormentarsi, la Bibbia. Mio padre fece poi una sfuriata a mia madre perché non voleva quel matrimonio. Diceva che Adriano era troppo ricco e diceva che era troppo fissato con la psicanalisi. Tutti gli Olivetti, del resto, avevano quella fissazione. A mio padre gli Olivetti piacevano, ma li trovava un po' stravaganti. E di noi gli Olivetti dicevano che eravamo troppo materialisti, specialmente mio padre e Gino. Capimmo dopo un po' di tempo che non saremmo stati arrestati. Neppure Adriano, che tornò dall'estero e si sposò con mia sorella Paola. Mia sorella, appena sposata, si tagliò i capelli. E mio padre non disse niente, perché ormai non poteva più dirle niente. Non poteva più proibirle né comandarle nessuna cosa. Tuttavia ricominciò a sgridarla dopo qualche tempo. E anzi, adesso sgridava anche Adriano. Trovava che spendevano troppi soldi e che andavano troppo in automobile fra Ivrea e Torino. Quando ebbero il loro primo bambino, criticava il modo come era tenuto. Diceva che dovevano fargli fare più bagni di sole, sennò diventava rachitico. «Lo faranno diventare rachitico», urlava mia madre. «Non lo tengono al sole! Digli che lo tengano al sole!» Poi temeva che lo portassero, se era malato, dagli stregoni. Adriano non credeva molto nei veri medici e una volta che aveva avuto una sciatica era andato da un bulgaro a farsi curare coi massaggi aerei. Aveva poi chiesto a mio padre che opinione aveva dei massaggi aerei e se conosceva quel bulgaro. Mio padre di quel bulgaro non sapeva nulla e i massaggi aerei lo mandavano in furia. «Sarà un ciarlatano, uno stregone?» E quando il bambino aveva un po' di febbre si preoccupava. «Non lo porteranno mica da qualche stregone?» Roberto, quel bambino, piaceva molto a mio padre. Lo trovava molto bello e rideva guardandolo perché lo trovava identico al vecchio Olivetti. «Sembra di vedere il vecchio Olivetti», diceva anche mia madre. «È preciso il vecchio ingegnere!» Mio padre, appena veniva la Paola da Ivrea, subito le diceva: «Contami di Roberto! È molto bello Roberto!» diceva sempre. La Paola ebbe poi un'altra bambina, ma quella non gli piaceva. Quando gliela portavano a vedere, la guardava appena, diceva: più bello Roberto». La Paola allora si offendeva e faceva il muso. E lui, quando se n'era andata, diceva a mia madre: «Hai visto che asina quella Paola?» I primi tempi che la Paola era sposata, mia madre spesso piangeva perché non l'aveva più in casa. Erano, mia madre e la Paola, molto unite e si raccontavano sempre una quantità di cose. A me, mia madre non raccontava niente perché le sembravo piccola e poi perché diceva che io le davo poco spago. Io andavo ora al ginnasio e non mi insegnava più l'aritmetica. Continuavo a non capire l'aritmetica, ma lei non mi poteva aiutare perché l'aritmetica del ginnasio non se la ricordava. «Non dà spago? Non parla?» diceva mia madre di me. L'unica cosa che poteva fare con me era portarmi al cinematografo. Io però non accettavo sempre le sue esortazioni ad andarci. «Non so cosa farà la mia padrona. Ora sento cosa vuol fare la mia padrona», diceva mia madre parlando con le sue amiche al telefono. Mi chiamava sempre la sua padrona, perché difatti ero io a decidere come avremmo passato il pomeriggio, se avrei accettato di andare al cinematografo con lei o no.